il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Oggi al quadrifoglio parliamo di certificazioni ambientali. Lo facciamo con Alessandro Cerutti, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, la prima cosa che volevamo fare era capire che cosa significa certificazione, in particolar modo certificazioni ambientali. Sappiamo che si apre un mondo, che si può parlare di cibo, di foreste, di tantissime cose. Cosa si intende per certificazione ambientale? Allora, il mondo delle certificazioni ambientali, come detto, è in effetti molto vasto, nel senso che per certificazione ambientale si intendono, nella maggior parte dei casi, quelle etichette che, applicate ad un prodotto, in qualche modo ne dichiarano un certo livello di sostenibilità ambientale, quindi un certo livello di compatibilità del processo produttivo con i sistemi naturali, ecco. Poi all'interno di questi ci sono le etichette ambientali, e quando si parla di etichette ambientali si apre un vero e proprio mondo, ecco, perché ci sono tanti aspetti che si possono tenere in considerazione. Allora, principalmente diciamo che per quanto riguarda le etichette ambientali c'è da tener conto che ci sono informazioni di tipo standardizzato e informazioni non standardizzate. Quando si parla di non standardizzate, molto spesso troviamo scritte, per esempio, quante volte ci capita di andare al supermercato e trovare un prodotto con sopra scritto sostenibile, rispetto all'ambiente, prodotto verde. In realtà tutte queste informazioni non rientrano in un codice specifico e quindi spesso possono essere tacciate, insomma, di essere devianti. Sono elementi pubblicitari, diciamo, per attirare un po' l'attenzione più che delle cose scientifiche. Esatto, è proprio questo il punto. Questi vengono chiamati, diciamo con nome tecnico, dei claims ambientali, cioè vengono chiamate delle dichiarazioni che però non hanno una base scientifica dietro. Quando invece si parla di etichette ambientali vere e proprie, allora si entra nel discorso delle certificazioni standardizzate, che quindi hanno un codice in qualche modo specifico. I riferimenti sono le norme ISO, le norme internazionali, e allora molto spesso in questo caso viene dato un valore, diciamo, dell'impatto ambientale, che può essere fatto in termini diversi, può essere fatto con metodi di carbon footprint, che è molto famosa, quindi l'impronta del carbonio, oppure water footprint, l'impronta idrica, anche questa sempre più usata per i prodotti, diciamo, venduti in Italia. Ovvero quanta acqua viene consumata, utilizzata per la produzione di qualche cosa. Esatto, quanta acqua viene, diciamo, consumata sia in termini di acqua diretta, quindi ad esempio per l'irrigazione delle colture, ma anche in termini di acqua indiretta. Faccio un esempio molto semplice: se noi calcoliamo per esempio la distribuzione di un determinato fitofarmaco, quindi di un pesticida, si potrebbe dire, questo ha bisogno di essere neutralizzato nell'ambiente e quindi c'è bisogno di un volume d'acqua che non è reale, però è, come dire, virtuale, di neutralizzazione, di bilanciamento. Quest'acqua virtuale rientra nel calcolo di una water footprint. Un esempio può essere anche quello degli allevamenti, in cui l'acqua, esatto, che viene consumata per produrre, diciamo, una bistecca considera sia l'acqua che beve l'animale, ma quella anche usata per l'irrigazione, per i mangimi e tutto quel crescere. Appunto. Esattamente. Quindi sì, un calcolo globale. Esatto. E quindi è chiaro che se l'etichetta presenta un numero esatto di metri cubi, quindi il volume dell'acqua utilizzata, si può fare un confronto con prodotti diversi. Il problema qual è? È che spesso dietro queste etichette i metodi non sono così generalizzati e quindi diventa difficile poi poter fare dei confronti realistici, perché in alcuni casi per esempio vengono considerate determinate fasi del processo produttivo e in altri casi no. Questo è proprio un problema molto grave che deriva dal fatto che non c'è una norma europea di riferimento per la standardizzazione dei calcoli. Allora volevamo anche capire chi fa queste certificazioni e anche chi le richiede, cioè le aziende oppure sono degli enti pubblici, associazioni di consumatori? Allora, in questo momento tutte queste categorie possono richiedere dei certificati ambientali. Nella maggior parte dei casi in Italia queste vengono svolte da studi privati che appunto su commissione di aziende o anche di enti pubblici possono condurre queste analisi e poi restituire alle aziende un report in cui viene certificato. Allora, il report fornisce dei valori, quindi i calcoli che sono stati fatti. Dopodiché spetta all'azienda a decidere se proseguire con quei risultati verso una certificazione oppure limitarsi ad avere una dichiarazione ambientale di prodotto. Ci fermiamo un attimo, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con Alessandro Cerutti, ricercatore del Dipartimento Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino, con cui stiamo parlando oggi di certificazioni ambientali. Ecco, la certificazione chi la fa? Allora, in questo momento non c'è un ente di riferimento nazionale per la certificazione ed è proprio quello il motivo per cui si genera quello che appunto ho chiamato il Far West delle certificazioni ambientali, nel senso che al momento ci sono diversi loghi che possono essere applicati, perché un conto è una certificazione ambientale come per esempio l'Ecolabel. In quel caso invece l'Ecolabel è un marchio specifico che fa riferimento ad un calcolo ben preciso che viene fatto dall'azienda e poi un ente terzo di verifica controlla che questo sia stato fatto in maniera corretta e si può applicare il marchio. Però l'Ecolabel non è applicabile a prodotti alimentari, o meglio al momento il protocollo di analisi per Ecolabel non c'è per i prodotti alimentari. Lo si può trovare per diversi prodotti, come ad esempio i più famosi possono essere le diverse carte fondamentalmente, oppure anche per sistemazioni alberghiere. Molto spesso possono trovare rifugi o alberghi che hanno certificazione Ecolabel, ma al momento questo tipo di certificazione non c'è per i prodotti alimentari. Quali sono i prodotti alimentari che da questo tipo di certificazione risultano più rispettosi dell'ambiente e quali invece magari richiedono maggiore attenzione? Questa è una domanda molto difficile da risolvere, nel senso che, come dicevo, molto dipende dai sistemi di riferimento, o meglio, quindi dall'azienda che fornisce i dati. Quello che si sa dalla bibliografia internazionale è che i prodotti derivati da sistemi di produzione animale, quindi sistemi zootecnici, sono mediamente più impattanti dei sistemi di produzione erbacee. Quindi diciamo che da un punto di vista degli impatti ambientali una dieta, si può dire, a basso contenuto di prodotti animali è più sostenibile, certo, di una dieta. E questo ormai è assodato, è quasi, diciamo che è fuori di dubbio dal punto di vista dei calcoli, ecco. All'interno di questi il dibattito è molto acceso tra una sostenibilità maggiore di produzione biologica oppure no, questo è tutto un altro discorso. Quindi all'interno dello stesso tipo di coltivazione, appunto, un prodotto bio e un prodotto non bio potrebbe avere un impatto, quindi non solamente un discorso di salubrità dal punto di vista della salute, ma anche di consumo. Esatto, allora diciamo che per quanto riguarda le produzioni biologiche, queste, allora, per ogni ettaro di coltura gli impatti ambientali sono molto minori rispetto agli ettari di coltura intensiva. Qual è il problema? Il problema è che la produzione è molto più bassa nei sistemi biologici, pertanto diciamo che è una scelta difficile, perché si può avere una produzione più sostenibile ma molto più bassa, oppure una produzione che riesce a sfamare, diciamo, più persone a costi più bassi però più impattante nell'ambiente. Questo è un grande dilemma, diciamo. Senta, un'ultima domanda. Quando noi prendiamo un prodotto, quindi un'etichetta di un prodotto che troviamo anche al supermercato, che cosa dobbiamo cercare per sapere se questo prodotto ha un qualche tipo di certificazione? Ci sono delle sigle, delle diciture, magari anche di legge previste? Allora, in questo caso la cosa migliore da fare è vedere se c'è un riferimento a qualche sito in cui è possibile scaricare l'intero report di ricerca. E mi spiego meglio: non essendoci un'etichetta valida a livello nazionale, ogni azienda è libera di inventarsi un'etichetta verde come più preferisce. E quindi si può trovare la classica fogliolina verde, per dire, con sotto un numerino. Tutte quelle etichette possono essere valide solo se c'è un riferimento ad un sito o comunque ad un posto pubblico, di accesso pubblico, in cui è possibile scaricare l'intero report di ricerca. Allora, nel momento in cui un'azienda mette sul proprio sito il report di ricerca e poi sul prodotto il logo con il riferimento del sito, quello, secondo me, al momento, non essendoci, ripeto, una norma di riferimento europea o nazionale per questo tipo di etichette, è la soluzione migliore. Va bene, abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza in materia di certificazioni ambientali, in particolar modo per i prodotti alimentari. Ringraziamo Alessandro Cerutti per queste delucidazioni. Grazie a voi. Grazie a tutti. Veniamo ora ad alcune notizie. Due nuovi atti legislativi sono stati adottati dalla Commissione europea per armonizzare e rendere più sicuro l'uso delle sostanze aromatizzanti all'interno del mercato unico. Sarà consentito l'uso nell'industria alimentare solo di sostanze aromatizzanti presenti negli elenchi approvati, quantificati in circa 2100, testate e giudicate sicure da organismi scientifici. La prima normativa entra in vigore il 22 aprile 2013 e l'uso di tutte le sostanze aromatizzanti non presenti nella lista sarà vietato dopo 18 mesi da quella data. Un secondo regolamento che riguarda misure transitorie per altri aromi, ad esempio a base di fonti non alimentari, sarà applicabile già dal 22 ottobre di quest'anno. È online il nuovo regolamento per la raccolta dei funghi all'interno del demanio forestale gestito dall'azienda speciale Veneto Agricoltura. Circa 16.000 ettari di grande pregio che vanno dal Bosco del Cansiglio alla Valmontina, dal Monte Baldo alla Foresta di Giazza fino all'area lagunare di Valle Vecchia o all'oasi polesana di Cadimello. Il regolamento, visibile a tutti sul sito di Veneto Agricoltura, riporta le modalità per accedere al permesso di raccolta funghi, per il quale è prevista comunque un'età minima di 14 anni e un massimo di non più di 3 kg, salvo eccezioni. La raccolta è consentita dal 1 giugno al 31 dicembre, nelle giornate di martedì, venerdì, sabato e domenica e in tutte le festività infrasettimanali, mentre è proibita nelle ore notturne e in alcune aree particolari. Veniamo quindi ad alcuni appuntamenti, i primi due in provincia di Belluno. A Limana, paese del miele, domenica 21 ottobre si tiene la fiera del miele, dell'apicoltura e dei prodotti agricoli locali, con laboratori per bambini e dimostrazioni di smielatura per tutta la giornata. La settimana successiva, a Faller di Sovramonte, sabato 27 e domenica 28 ottobre, si tiene invece la 12ª fiera della mela prussiana, in dialetto del Pont Prussien, a coltivazione naturale e biologica. Una manifestazione che si propone di promuovere i prodotti agricoli e artigiani di questi versanti alpini vicini a Feltre, fino ad oggi noti solamente per il celeberrimo fagiolo di Lamon. Per accedere comodamente alla fiera che si snoda lungo le vie del paese, si consiglia di approfittare del bus navetta in partenza dalla zona industriale di Fonzaso. Un'altra mostra pomologica si tiene dal 19 al 21 ottobre a San Pietro Viminario, in provincia di Padova. Prosegue invece la terza edizione della rassegna C'è davvero del sale in zucca, per il rilancio della coltivazione e del consumo della zucca marina. Dal 19 al 21 ottobre, zucca marina quindi in mostra e in degustazione nei padiglioni del mercato orticolo di Brondolo, assieme alla mostra mercato delle imbarcazioni da diporto. Vi ringraziamo per averci ascoltato e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ricordandovi che potete scaricare questa trasmissione dal sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.